per la quale penso alla storia, al senso. Te lo sai, ancora parole ma dai, ti ascolto, mi piace sentirti parlare, vederti cantare mi fai girare la testa. In mezzo alla natura, sto qui in mezzo alla natura. Serate al burgo, guardare la luna, stelle, tutte le costellazioni, ma è inutile contarle, sono milioni. Guardo ancora quella stella, la vedo piccola ma immensa, nel grandioso immersa tra mille pensieri. La mia mente si è persa e ripensa all'estate passate. Adesso perché sta finendo tutto questo? Sei te speciale, è speciale, è speciale. Io non so cos'è, non so il perché, ma non posso credere, esiste un'altra come te. Te, esiste un'altra come te. Pesa anche qualche lacrima e confesso più di una. Ecco perché adesso ho paura. Che siamo felici io e te. Beh, da quando ti ho vista batte più forte il cuore. Non sono sicuro, ma penso sia amore. Sicuro, ma penso sia amore. Per me è un periodo strano. Non so quello che dico, non so quello che faccio. Io non so cosa provo, io non riesco a dare un nome a questa strana ma stupenda sensazione. Amore. Tante fatiche per mettere una tagno. Troppe fatiche per sembrare una star. Tante troppe, ma con determinazione. Presto o tardi arrivo a destinazione. No, io non mi rassegno. Mi viene una rima e me la segno. Con determinazione la canto, non mi importa se mi sbaglio. Determinazione, presto o tardi arrivo a destinazione. Tante fatiche da vivere da soli, senza paura. Dovita da vivere da soli. Sono i veri amici, non abbiamo amici. Puntare troppo in alto, guarda in basso. Terrai d'occhio la possibile caduta. Se cadi rialzati, ma non sul momento. Potrebbe ricaderti addosso tutto l'universo. Ti sentiresti perso, pensa. Per far capire a chi mi sente che a causa degli amici puoi soffrire veramente. Se lo dico è perché l'ho vissuto. Ora su uno scoglio guardo il fiume e resto muto. Non fidarsi è meglio, dopo un tradimento di certo non mi svengo. Vita da vivere da solo come la luna. Il cuore mio non smetterà di battere. Ora ho la prova, dopo nascere dal niente. Ho conosciuto te, mi completi pienamente. L'unica che voglio, che sogno. L'unica che al momento mi è entrata dentro, nel centro. Con un sentimento, l'unica di cui sono perso. Per la quale penso alla storia, al senso.